Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buona giornata da Jean-Marie Delbo e benvenuti a Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali che trovate in questi giorni in edicola. Prima di tutto, buon anno a tutti. L'augurio arriva a qualche giorno dal primo giorno dell'anno, ma non è rituale, perché il tema dominante dei settimanali che si trovano in edicola in questi giorni è proprio cosa sarà del 2009. Inevitabile, si potrebbe pensare, in un periodo segnato da una crisi che lascia molte inquietudini. Ma la crisi, come vedremo, non è l'unico tema che intercetta l'attenzione dei settimanali italiani e stranieri. Partiamo dall'Espresso. L'Espresso dedica la sua copertina proprio a quello che ci attende per il 2009 e lo fa con un titolo molto indicativo. Si parla addirittura di salto nel 2009, dove la metafora del salto nel buio è evidentemente chiara. La crisi costituisce anche il pezzo iniziale degli approfondimenti che vengono dedicati al 2009. Ne parla Moisés Naím, che sottolinea come la crisi finanziaria ha smentito una volta per tutte l'affermazione secondo la quale l'economia merita di essere trattata alla stregua di una scienza. Gli economisti non sono riusciti a prevedere il cataclisma. Quindi, sottolinea Naím, probabilmente sarà necessario un cambiamento generale di approccio degli economisti alla scienza. L'autore sottolinea come i malesseri economici degli ultimi anni sono stati trattati con medicine che indebolivano il paziente e che ci hanno portato alla catastrofe nella quale oggi ci ritroviamo. Non abbiamo avuto nessun Keynes che ci mettesse in guardia dagli effetti tossici della terapia. Non resta che auspicare, sottolinea l'autore, e al più presto l'avvento di uno o più suoi emuli, non soltanto per salvare la loro stessa professione, ma anche, cosa di gran lunga più importante, per salvarci da un'ulteriore crisi che le soluzioni a quella attuale potrebbero implicare. Forse una delle sorprese del 2009, conclude Naím, sarà proprio il palesarsi di una linea di pensiero economico più nuova e più rispettabile. Sembra dunque derivare una sorta di sfiducia nei confronti sia della categoria degli economisti che anche dei rimedi posti in essere. Al contrario, Economy, in un articolo di Mario De Aglio, pone l'accento più sulle prospettive a brevissimo termine. Sottolinea De Aglio, i piani di rilancio messi a punto dai vari governi, tra i quali si colloca anche quello italiano, dovrebbero soprattutto nel periodo gennaio-aprile vincere l'avversione alla spesa, senza peraltro trasformare i consumatori in spendaccioni accaniti, cosa che non sono mai stati. A convincere a un ritorno, anche solo parziale, agli acquisti, contribuirà il calo rispetto a qualche mese fa o in un aumento rispetto alle previsioni di numerosi prezzi, a cominciare da benzina, energia, riscaldamento, alcuni alimentari di base come pane e pasta. In definitiva, continua De Aglio, l'orizzonte più nero è quella di una diminuzione del PIL attorno all'1-2%, non troppo diversa dalla stagnazione alla quale purtroppo siamo abituati da anni. Se vogliamo fare di meglio, è bene che diamo una regolata alla barca Italia, distribuendo meglio il carico, ci siamo di fatto dimenticati del mezzogiorno, e revisionando il motore, ossia mettendo mano almeno a qualcuna delle innumerevoli riforme con le quali ci siamo baloccati in questi anni mentre l'economia perdeva slancio. Sul tema della crisi ritorna anche Panorama. Panorama però mette l'accento su un aspetto differente. Fa in una inchiesta interessante il quadro dell'Italia che si è salvata, ovvero delle regioni nelle quali l'andamento del PIL avrà ancora elementi di positività o comunque di non negatività. Sottolinea Alessandra Gerli, sono Emilia Romagna e Valle d'Aosta le campionesse del PIL 2008. Nell'Italia in recessione, solo in queste due regioni, il prodotto interno lordo cresce, sia pure dello 0,1%. Il fronte del PIL che tiene raddoppia con Lazio e Trentino Alto Adige, dove a conti fatti si dovrebbe chiudere con crescita zero. Nelle altre regioni si va sotto. L'indicazione deriva dalle stime della società di ricerca Prometeia e dalle stime di Unioncamere, l'ente che unisce le camere di commercio. Anche se spesso è questione di decimali, continua Alessandra Gerli, di 0, in meno, la mappa che ne esce mostra un generale arretramento dell'economia. Dalla Lombardia, che crea oltre un quinto del PIL nazionale, ma dove quest'anno potrebbero mancare all'appello 530 milioni di euro, alla Basilicata, che 2 fa era seconda nella classifica dei maggiori incrementi e ora si ritrova prima in quella delle cadute più vistose, più 1,3%. Il servizio di Alessandra Gerli è corredato da una tabella che appunto mostra una grande macchia rossa che domina la cartina dell'Italia, che è la macchia delle regioni dove la caduta del PIL è significativa, e 2 isole apparentemente felici, 2 isole verdi, che sono appunto la Valle d'Aosta e l'Emilia-Romagna. La copertina di Famiglia Cristiana ci riporta anche in questo caso alla situazione del 2009. Ma Famiglia Cristiana lo fa per lanciare un augurio e un messaggio politico chiaro. Il titolo è Forza Famiglia e l'indicazione è di dare il massimo sostegno al perno della società come priorità del nuovo anno. L'editoriale che apre il giornale è molto chiaro. L'Italia, dice Famiglia Cristiana, ha tanti problemi, alcuni urgentissimi: lavoro, pensioni, scuola e immigrazione. Tutti si intrecciano in un luogo preciso della nostra vita individuale e sociale, la famiglia, a sua volta trattata come problema, senza che ci sia qualcuno che voglia risolverlo. Mai come in questi anni, sottolinea il periodico, si è parlato tanto di famiglia, il più delle volte per dirne male o anche per smontarla. Oggi la politica, continua Famiglia Cristiana, pare un gatto che si morde la coda, già spelacchiata. I pensionati sono troppi, i disoccupati pure, i consumatori consumano sempre meno. È difficile capire, si domanda Famiglia Cristiana, che le nascite ridotte al lumicino ci penalizzano ancora di più, che siamo un paese senza futuro e che è indispensabile una politica familiare per favorire la natalità ed evitare il declino. Comincia un nuovo anno che si prospetta anche difficile, conclude Famiglia Cristiana. Noi poniamo la speranza nella famiglia, invitiamo la politica a ripartire da essa. E alla fine l'augurio di buon anno ai lettori. Le indicazioni relative alle prospettive del 2009 sono rivolte naturalmente anche alla politica estera. Lo fa in particolare l'Espresso, con 2 interventi che si pongono su 2 prospettive profondamente diverse. Da un lato Gigi Riva affronta un colloquio con Emmanuel Todd, il politologo e studioso francese che negli anni 70 aveva previsto la caduta dell'impero sovietico e che ora viene intervistato relativamente alle prospettive di politica internazionale, soprattutto in relazione al ruolo di Stati Uniti, Cina ed Europa. Noi europei, inizia l'articolo di Gigi Riva, adesso dobbiamo fare la carità agli Stati Uniti. Dobbiamo essere comprensivi con loro. L'indicazione arriva proprio da Emmanuel Todd, che sottolinea: io propongo di arrivare a un piano Marshall per aiutarli, ma devono essere chiare 2 cose: che gli diamo un tempo di adattamento durante il quale devono comportarsi bene e gestire oculatamente le risorse, e che il denaro che gli diamo è un prestito, siamo noi padroni e non vogliamo più essere sottomessi. Parole decisamente spiazzanti che farebbero nascere più di uno scetticismo se non venissero da Emmanuel Todd, 57 anni, storico e demografo, uno dei più originali intellettuali francesi. Emmanuel Todd, sottolinea Riva, aveva già scritto un libro del 2002 dove pronosticava l'imminenza di una spaventosa crisi finanziaria. Siccome ha avuto ragione, e non è il solo caso, nel 76 aveva previsto la dissoluzione dell'URSS, vale la pena di starlo a sentire. Todd si pronuncia anzitutto sulle grandi aspettative che ha determinato l'elezione di Barack Obama. Sottolinea: sono pessimista per 2 motivi. Se sei un presidente democratico, difficilmente fai qualcosa di buono in economia, a meno che tu sia Roosevelt. Obama, invece, deve fare i suoi errori, dimostrare che è un buon americano e non avrà, credo, lo stesso slancio del suo illustre predecessore. E poi c'è la ragione strutturale. L'America ha distrutto nel corso degli ultimi anni la sua base industriale. Ha un deficit spaventoso di ingegneri, tecnici, operai qualificati. Questo è uno dei motori che produce la crisi ed è un problema di lunga durata. Todd, dopodiché, viene interrogato su quale soggetto potrà prendere l'egemonia economica e l'indicazione che arriva da Gigi Riva è se eventualmente questo soggetto possa essere la Cina. Ma quale Cina? Risponde Todd. Ha avuto una crescita impressionante, ma il paese è più esposto alla crisi perché il 40% del PIL deriva dalle esportazioni. La Cina dipende troppo da un mondo in recessione. Chi può detenere l'egemonia economica è l'Europa, è l'area che ha il migliore equilibrio col resto del mondo. Importa materie prime ed esporta prodotti finiti. Se decide di scegliere la strada del protezionismo è fatta, riavrà il suo ruolo di centro di gravità economico del mondo. Il protezionismo, obietta Riva, in tempi di globalizzazione? I singoli stati, risponde Todd, sono già pesantemente intervenuti nella crisi economica. Mentre il protezionismo si fa alla frontiera ed è necessario perché la questione cruciale è sostenere la domanda interna. L'Espresso torna poi sui temi della politica estera in un intervento di Lucio Caracciolo che sottolinea: quando il mondo appare sull'orlo di un cambio di paradigma, molti invocano un nuovo ordine internazionale. Di fronte alla crisi finanziaria e alla recessione, le organizzazioni come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale appaiono a tutti per quello che sono: due nani cui mancano i fondi, le idee e la legittimazione necessaria a fronteggiare una catastrofe di queste dimensioni. Né certamente il G8 appare in grado di fare meglio. Oggi si punta semmai sul G20 o G22, nel quale accanto alle maggiori potenze occidentali e alla Russia sono invitate le principali potenze emergenti. Però alla fine, sottolinea Caracciolo, è probabile che dal G8, dal G20, possa scaturire un G2. Un G2 che, formato da America e Cina, porrebbe rilevantissimi problemi di ruolo all'Unione Europea e diminuirebbe, naturalmente, anche il peso che può avere l'Italia. E concludiamo con la politica estera ricordando la copertina dell'Economist, che torna naturalmente sul problema della guerra che è in corso lungo la striscia di Gaza, e sottolinea come la situazione sia difficilissima da gestire proprio per il problema del fatto che Israele viene da una guerra come quella del Libano e che le elezioni israeliane sono molto vicine, ma anche le ragioni di Israele sono sicuramente significative. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali che trovate in questi giorni in edicola. Nella prima parte abbiamo approfondito il tema dominante di questa settimana, cioè l'arrivo del nuovo anno del 2009 e le prospettive della crisi e della politica estera. Ora cambiamo decisamente registro. Andiamo al Nouvel Observateur, che nel numero in edicola questa settimana dedica un intero inserto a un tema assolutamente significativo: la ricerca della felicità. Lo apre con una foto straordinaria per capacità evocativa dell'attrice Cécile de France e dedica poi tutta una serie di approfondimenti al tema della ricerca della felicità, prendendo diversi spunti. Partendo dagli spunti che possono venire dalla ricerca filosofica che nei secoli ha riguardato la felicità, per poi spostarsi ai temi di carattere religioso, alle scienze e agli aspetti psicologici. Diciamo un modo probabilmente per cercare di seminare ottimismo in un momento in cui l'ottimismo è decisamente poco e per indicare un obiettivo certamente ambizioso, ma che, diciamo, meriterebbe naturalmente di essere perseguito. Uno degli altri temi che vengono trattati nel settimanale, che ci riporta invece più su un aspetto assolutamente pratico e pragmatico, è un lungo servizio che descrive la ricerca che viene fatta da paesi e società di terra laddove terra è disponibile. Si parla in questo caso della necessità da parte di molti paesi, a partire per esempio dalla Cina, dalla Corea del Sud e dagli stati del Golfo, di ricercare territori, terreni laddove sono disponibili. Come nutrire il proprio popolo quando si hanno troppi abitanti e troppo pochi terreni coltivabili? È sufficiente andarli a cercare. È così che la Cina, la Corea del Sud o gli stati del Golfo si sono lanciati in una corsa alla terra. E questa corsa alla terra si è indirizzata verso il Sudan, il Brasile, l'Argentina, laddove i territori sono sicuramente significativi, dove ci sono spazi di espansione. E l'articolo del Nouvel Observateur si apre facendo il paragone della caccia da parte dei paesi ricchi ai territori di paesi più poveri come di un vero e proprio monopoli o di un risico, che portano ad acquistare terreni in territori addirittura molto lontani dal proprio territorio nazionale. Da un lato, sottolinea il Nouvel Observateur, ci sono paesi ricchi o emergenti come la Cina, la Corea del Sud o i paesi del Golfo che si preoccupano per la loro sicurezza alimentare. Dall'altro lato ci sono paesi poveri come il Sudan, l'Etiopia, l'Uganda, l'Indonesia, il Madagascar, paesi che hanno casse disperatamente vuote ma a cui resta una ricchezza, le terre così vaste, così promettenti, da vendere oppure da affittare. Si tratta quindi di un approfondimento che in questi giorni è stato ripreso anche dal Corriere della Sera e che fa nascere un nuovo mercato, se così si può dire, il mercato della terra e delle risorse. Rimanendo sul tema internazionale e affrontando però un punto di vista decisamente più ottimistico, passiamo all'Economist. L'Economist ha un approfondimento che parla niente meno del problema della giovani che da moltissimi paesi ormai affrontano i propri studi universitari all'estero. Sottolinea l'Economist come questo fenomeno è ormai diventato un fenomeno di massa e sottolinea appena due decenni fa gli studenti che facevano l'università all'estero erano destinati a formare una vera e propria elite. Alcuni potevano usufruire di borse di studio dai nomi molto famosi come le Fulbright, altri erano mandati direttamente dai loro governi per diventare quadri dirigenti. Molto pochi nascevano in famiglie decisamente cosmopolite che cercavano le migliori scuole per loro. Ora il quadro è decisamente cambiato. Il secolo nuovo ha portato l'idea che andare all'estero per compiere i propri studi è diventato una soluzione che può essere affrontata anche da studenti tra virgolette normali. Nel 2006, infatti, c'è stata una crescita significativa, quasi il 50% rispetto al 2000, di studenti che hanno deciso di passare il loro periodo formativo lontani da casa. Basta pensare, per esempio, ai programmi Erasmus che sono diventati ormai estremamente comuni anche nelle nostre università e che arricchiscono i curriculum dei nostri studenti. Cambiamo ora prospettiva. Continuiamo a parlare di persone che si muovono, ma questa volta di persone che si muovono non per andare a compiere un periodo di studi, ma si muovono per il lavoro e vengono a cercarlo in Italia. Donna Moderna, infatti, presenta quattro storie sotto il titolo significativo «Gli immigrati che non ti aspetti». Si tratta di quattro storie che prendono in considerazione situazioni estremamente particolari. Stranieri che lavorano in Italia e che compiono lavori assolutamente imprevedibili, oppure che ricostruiscono in Italia una situazione tipica dei loro paesi che viene in qualche modo esportata nel nostro paese. Nell'articolo di Carlo Giorgi si racconta la storia di Mabruk Adel Fattah, il prosciutto di Parma, sottolinea Carlo Giorgi, come il Davide di Michelangelo. Il paragone è irriverente, ma a Langhirano i pullman carichi di turisti giapponesi ci arrivano davvero. Obiettivo: infilarsi nel Museo del Prosciutto e degustare l'opera d'arte della gastronomia italiana. Qui lavora Mabrouk Adel Fattah, 41 anni, tunisino in Italia dal 1987. «Sono musulmano», dice Mabrouk, «il prosciutto non lo mangio, ma il lavoro mi diverte molto anche perché oggi ho un ruolo di responsabilità. Gestisco il robot dell'azienda, inserisco i dati al computer, verifico la data di macellazione dei maiali. A casa, in Tunisia, torniamo una volta ogni 3 o 4 anni. I miei 3 figli parlano italiano e vogliono rimanere qui. Mia moglie è d'accordo». Carlo Giorgi sottolinea quindi ancora una volta, con questa storia esemplare, un altro dei problemi significativi dell'immigrazione italiana, ovvero la gestione della seconda generazione di ragazzi cresciuti oppure nati in Italia che richiedono una nuova identità. Ma la sua storia continua con l'esame della vicenda di Wang Suereng. «Nella risaia a fianco alla mia», scrive Carlo Giorgi, «hanno girato Riso amaro con Silvana Mangano», raccogliendo il racconto di Claudio Cirio. «Io me lo ricordo bene. Nel dopoguerra le migliaia di mondine italiane che tra metà maggio e luglio arrivavano nella nostra zona per lavorare. Ma oggi nessuna italiana vuole più fare la mondina. Per fortuna allora sono arrivati i cinesi». Claudio Cirio è titolare di un'azienda risicola e nelle sue risaie produce solo riso da semina, genere che serve come base per la produzione nazionale e che richiede di essere curato in modo speciale. La mondatura, sottolinea Cirio, va fatta a mano da operai specializzati. Da alcuni anni sono venuti in nostro salvataggio tanti immigrati cinesi. Si tratta di circa 200 lavoratori, uomini e donne, spiega Wang Su Reng, ricercatore cinese, che ha introdotto alcune specie innovative di riso in Italia e che recluta per la mondatura connazionali capaci. Durante l'inverno lavorano nelle città dove sono le grandi comunità cinesi, da Milano a Prato. Invece d'estate preferiscono il lavoro dei campi, che forse facevano anche in patria. Sono richiesti a Vercelli, Novara, ma anche in Veneto. Cambiamo decisamente argomento e passiamo a un'inchiesta estremamente interessante che viene fatta da Panorama. Donatella Marino sottolinea come esista una inflazione che dipende dall'età, ovvero un'inflazione che è più alta per gli anziani e più bassa per i giovani. Telefoni cellulari a meno 18,70%, scrive Donatella Marino, le ricariche a meno 3,6%, i videogame a meno 2,3%, mentre scendono anche i prezzi di macchine fotografiche e videocamere. Non è un'inversione al ribasso dell'inflazione, che pure negli ultimi mesi dell'anno è scesa, ma è il risultato di un'analisi di nicchia. Quanto pesano le variazioni dei prezzi nelle tasche dei giovani nella fascia di età dai 18 ai 25 anni? Si scopre che oggi l'inflazione per i giovani è più bassa della media nazionale, 1,7% nei primi 10 mesi del 2008 contro il 3,4% del dato più generale dell'Istat. E concludiamo con una curiosità. È l'inchiesta che viene presentata dal Mondo. Il Mondo decide di assegnare lo scudetto, ma questa volta non quello che viene conquistato sul campo, ma quello che viene conquistato sui libri contabili. Lo scudetto dei soldi, facendo l'analisi di chi ha il miglior rendimento rispetto a quanto spende in campionato. Il risultato è stupefacente. Vincono sempre i colori nerazzurri, ma questa volta sono quelli dell'Atalanta, seguita dall'Udinese e dal Cagliari, mentre le grandi società Milan, Juve, Inter e Roma si attestano decisamente in zona retrocessione. E con questo concludiamo Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali. Un ringraziamento a Daniele Casagrande e Pietro Lacorte. A risentirci e buona giornata da Jean-Marie Delbo.